Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Fratelli e sorelle, buonasera. Come hai rinunciato alla ricchezza? Io ho necessità di vivere fra la gente. Umiltà, dolcezza, magnanimità. Di un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Denaro è lo sterco del diavolo. Buona domenica e buon pranzo. Era un impegno che ci eravamo presi. Aspettavamo con ansia che finalmente uscisse un libro che codifica in maniera scientifica quello che è il momento fatale e rivoluzionario della Chiesa dell'ultimo anno. L'avevamo detto con Bruno Ballardini, che è un esperto di marketing e comunicazione strategica, è appena uscito il suo libro che aveva annunciato da noi, Leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, edizione PM. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, ci siamo arrivati, lo inquadriamo in una giornata di oggi innanzitutto per rimanere nel contesto, torniamo a parlare di Papa, perché è uscito il tuo libro e che ci interessa capire esattamente come hai spalmato su un piano di strategia aziendale perfetta in ogni passaggio, dall'internal audit fino alla definizione poi della strategia, quindi sembra quasi che questo Papa la sappia lunga, in un giorno come questo in cui l'emotività improvvisamente è nella totale stravaccamento di tutte le istituzioni, non si capisce bene, ci avviamo a delle elezioni europee che non sappiamo nemmeno quanto sia consistenza e il senso di Europa negli italiani che andranno a votare, sia a destra che a sinistra sono scattate le manette, vanno tutti dentro, la vera polemica è se abbia fatto bene una portavoce di un partito di estrema sinistra a mostrare le sonatiche in un manifesto, in un cartello pubblicitario, in un manifesto e via dicendo, insomma sembra che il problema sia da tutt'altra parte, però io so bene che nella giornata di mercoledì uscendo di casa ho trovato completamente pieno tutto il mio quartiere e sto, guarda, a un paio di chilometri da San Pietro, quindi c'è qualcuno che funziona, che non si ferma, che nonostante tutto vada avanti, e è proprio il Papa in questo momento. Ma il Papa ha una grandissima occasione, come si diceva all'epoca di Ratzinger, quando poi ha rassegnato le dimissioni di fronte alla sua incapacità gestionale, siamo alla fine, alla resa dei conti. Cioè, oltre questo Papa c'è o il baratro, cioè la crisi definitiva della Chiesa, oppure la sua rinascita, e lui ha questa grandissima responsabilità, quindi è il momento suo, quindi non faremmo che parlare di lui per molto tempo. Ecco, però mi è appena definito un momento epocale nella storia della Chiesa. Un Papa che si dimette, un Papa che improvvisamente incarna lo spirito del manager. Il Papa non sarebbe mai dimettere, il Papa è stato scelto dalla provvidenza, la provvidenza lì l'ha messo, la provvidenza non si può sbagliare, se la provvidenza si sbaglia il Papa deve morire o va per estinzione naturale, quindi diciamo un'uscita da una definizione della Chiesa che era il suo grande limite, l'abbiamo detto più volte, la Chiesa non si rendeva conto come anche la gestione dell'affair religione, lo dico ma senza toni dispregiatori, proprio per spalmarlo su un piano strategico, andava molto avanti, intorno la stanno accerchiando le sette, le controsette, le religioni, le associazioni piramidali, via dicendo. A un certo punto ha deciso di muoversi come un'azienda, ha giubilato un manager che non funzionava, l'ha mandato a casa e ne ha preso un altro che ha studiato. Sì, da un certo punto di vista Francesco si può intendere anche in termini manageriali, cioè in termini aziendali, come un curatore fallimentare, però questa funzione è stata superata subito dai primi mesi di papato, perché poi in realtà ha cominciato a fare tutte le operazioni necessarie per riaggiustare i coach, rimettere a posto i coach, cioè internal auditing è quella funzione che fa sì che si ascolti veramente, si analizzi la situazione di crisi e se ne esca, E quindi poi addirittura ha coinvolto delle aziende internazionali. Beh, anche un po' il senso, una sorta di processo interno, quando un dirigente o responsabile sotto auditing vuol dire che stanno a guardare esattamente cosa sta succedendo, se è il caso o no di tenerlo. Allora, lui ha iniziato, diciamo, a colpi di macete, perché sono cadute delle teste. La prima è stata, una delle prime è stata quella di Tarciso Bertone, che assommava sotto di sé un potere immenso. Oltretutto era stato scelto da Ratzinger per le relazioni con l'estero. Segretario di Stato è la seconda funzione principale ed era l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, perché tutti quanti i vescovi erano al corrente del fatto che non avesse diplomazia, doti diplomatiche. In più poi vari altri problemi. Poi c'è stato anche Alzaga, che è andato al posto di Sciacca al governatorato. Ci sono state una serie di teste immediatamente che sono cadute. Poi ha cominciato Francesco a fare del lavoro di fine tuning, cioè chiamando società di consulenza internazionale, perché occorrevano organismi terzi dall'esterno che adeguassero le procedure interne a standard internazionali. Ecco, chiediamo un attimo al pubblico che ci ascolta, che voglio coinvolgere in qualche maniera. Avete avuto la percezione positiva? Non è che solamente questo inficia o mette in dubbio o crea un alone negativo attorno a quello che sta accadendo. Avete avuto l'impressione che in realtà ci sia stata un'importante, precisa strategia di recupero? Un'azienda in fase fallimentare, come diceva Ballardini, che rischiava la bancarotta, in realtà è stata affidata a un curatore che in realtà è molto di più di un curatore fallimentare. Di solito il curatore fallimentare è un personaggio che rimane nell'ombra, muove in attesa che arrivi il nuovo amministratore delegato. No, lui ha fatto molto di più. È già il nuovo manager, è il manager del futuro, perché poi ha delle doti dirigenziali che io ho descritto nel libro, che sono indubbie, ma nessuno si aspettava questa nomina. Cioè è stato un colpo di mano all'ultimo momento. Probabilmente c'è un'ala che sa bene qual è l'entità della crisi, e questo era l'uomo giusto al momento giusto. Noi abbiamo fatto altre trasmissioni su questo. Massimo Franco, ad esempio, dice che in realtà il cambio cruciale è che la grande forza della Chiesa in realtà ha spostato il suo asse geografico, non è più nell'asse romano ma è l'asse latinoamericano. Questa è una parte della cosa, è una parte strategica in termini di marketing territoriale. E in realtà quello che sta facendo è molto molto di più, perché sta riportando i valori di base il Magistero della Chiesa. Questa è una cosa, è un'operazione importantissima. Questo è uno dei problemi che avevi accennato varie volte, non sei venuto da noi. Mancava una chiara definizione dei limiti e degli obiettivi. Non c'erano più gli obiettivi. Qual era il target? Nessuno sa più quali sono i valori fondanti, cioè se li sono dimenticati. Quindi io alla fine una delle conclusioni a cui arrivo è che il più grande lavoro che dovrà fare Francesco sarà quello di convertire, ma non altri popoli, i cattolici. Questo è la vera questione. Cioè il vero problema è che i cattolici sono dimenticati, che occorre credere in Dio, sì, per dirsi tali. Non basta la fede, occorre saper praticare i valori, essere portatori di questi valori e incarnarli. Allora, 800 24 0024, mentre Ballardini ci spiegherà passo per passo come un manuale di strategia aziendale può essere preso pari passo e applicato a quello che sta facendo il Papa. Se ciò avviene perché c'è un consapevole disegno di strategia non lo so, ma fatto sta che probabilmente sono delle maniere assolute che dalla arte della guerra in poi sono incontrovertibili. Quelli sono i sistemi per salvare qualcosa che non sta funzionando e farlo tornare a funzionare. 800 24 0024. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Le chiacchiere pure possono uccidere, perché uccidono la fama delle persone. Voi giovani non potete e non dovete essere senza speranza. La speranza fa parte del vostro essere. Un giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato troppo presto. 800 24 0024, vi riconoscete in questa lettura? Considerate riduttivo che noi stiamo considerando il Papa come un grande manager che deve salvare una situazione che ormai stava tracollando, oppure naturalmente è una maniera moderna, contemporanea, per gestire l'assoluto, che è in fondo qualcosa che non ha limiti, è limitato, si gestisce soltanto con un atto di fede. Ecco, a un certo punto Ballardini, nel suo libro, che ricordo, Leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, che parla di come Papa Francesco sta lavorando in maniera concreta e ascrivibile a dei manuali di gestione aziendale, c'è una fase interessante. Ascoltare gli stakeholder, che è una cosa che nessuno ha mai detto a un papa. I stakeholder sono i portatori di interesse, cioè tutte le persone chi veramente, che sono interessate, che non sono solo i clienti già acquisiti, ma anche quelli che potrebbero arrivare ancora, cioè le persone che gravitano intorno all'area di interesse di cui stiamo parlando. Quindi in questo caso è la dottrina cristiana. E questo è molto importante perché significa un'apertura diversa, mentre prima ci si rivolgeva soltanto ai clienti acquisiti. Adesso si cerca adesso, di allargare, è chiaro. Sì, però con un dialogo. Anche perché i clienti acquisiti poi per un motivo anagrafico alla fine si esauriscono. Esatto. E invece bisogna trovare il nuovo. Guido mi sembra abbia colto appieno il messaggio di Ballardini. Guido, buongiorno. Buongiorno. Niente, stavo pensando proprio parlando anche con i vostri collaboratori che in realtà la Chiesa come tale è nata come una onlus. Solamente che nel tempo si è trasformato in una grande holding e questo ha allontanato chiaramente chi ha partecipato alla holding. Cioè, non doveva fare profitto. Non doveva fare profitto. Sì, ma da quando invece questo? Sono la prima settimana. Direi che da quasi 1500 anni forse. voglio dire, è un fallimento per troppa ricchezza. Che è una cosa un po' difficile, ma se torniamo a un discorso di valori reali. Ma esiste il fallimento per troppa ricchezza? Esiste il fallimento per troppa ricchezza, perché se dobbiamo pensare a quel messaggio, al messaggio cristiano, che la vera ricchezza sono i valori, probabilmente, e dobbiamo evitare di avere ricchezze e denaro eccessive, perché magari ci tende a distogliere dai veri valori. Il fatto è che la Chiesa in questi ultimi secoli, diciamo, ha fatto solamente questo. Quindi questo Papa sta cercando di fare, di trovare la quadra giusta per cui il ritorno ai valori però permetta di gestire in maniera più adeguata alle leggi e le garanzie contemporanee anche la grande ricchezza, ma anche su questa ricchezza c'era molto a dire. Fermiamoci un istante per il traffico, è interessante quello che ha detto Guido, lo ripigliamo fra un istante proprio. Melog, cronache meridiane. L'auto che si fa notare, ma io vi dico davvero, a me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma non si può. Io credo che la macchina è necessaria perché si deve fare tanto lavoro per spostarsi di qua. Ma prendetene una più umile, e se ti piace quella bella, pensate a quanti bambini muoiono di fame, soltanto quello. Beh, nessun papa ha avuto il coraggio di entrare, non tanto di predicare la povertà, la moderatezza che hanno fatto tutti, ma entrare così nello specifico. Un papa che gira con un catorcio, vive in un appartamentino piccolissimo, rinunciando ai lussi papali, su cui tutti sono naturalmente entrati perché fa parte dello status, e manda delle frecciate molto precise, l'ultima è quella del famoso appartamento smisurato, pantagruelico, con terrazze, barbecue, palmizi, del suscitato Bertone, che a un certo punto ha detto ma no, ma me l'hanno dato, che ho fatto di male, sì, poi li sta mettendo tutti in mutande. Ecco, no, ma è importantissimo il discorso sulla non solo predicare i valori, ma incarnarli. Certo. Lui tutto quello che dice anche riguardo alla povertà lo fa, e questa è la differenza con altri. Perché... c'è una verità, non è che costi tanto, poi alla fine no. Quando sei il capo della Chiesa puoi anche stare in 70 metri quadri, no. Il potere ti appaga comunque, però è un gesto importante. Questo è nel marketing, nel management moderno, l'amministratore delegato deve dare l'esempio per primo, questa è una regola ferrea, cosa che non accade... Non ha mai fatto nessuno. No, ma tantomeno esempio in politica, no? Quando vediamo il tipo di leadership dei nostri politici, ma tutti, nessuno escluso, non sono paragonabili minimamente all'esempio, ad esempio, di Francesco. Ecco, quindi uno diventerebbe papista subito rispetto a questa discrasia. Ma poi entra anche nel linguaggio comune, perché guarda che un papa che parla di automobili, di macchine, di appartamenti, di cose così, si ha l'impressione che lui carpisca, gestisca e usi bene il linguaggio comune. E lui lo fa per forza questo, no? Lui riparte dalla come si può dire, ridefinizione, maneggiando i valori concreti, quelli che sono della vita di tutti i giorni. Sentiamo gli ascoltatori. Bruno, buongiorno. Buongiorno Nicoletti e buongiorno al dottor Ballardini anche. Buongiorno. No, guardi, io concordo in pieno con voi sul fatto che questo Papa predica bene e razzola anche bene, ma non solo perché io sia credente, devoto e praticante, ma proprio perché all'inizio poteva venire, perché io razzola non è bellissimo però. Comunque vabbè, ho capito. Cioè, nel senso, mette in pratica in maniera corretta quelli che sono i precetti, sì. Certo, ma lui non per niente ha scelto questo nome che è proprio l'epitome, la finetto che del suo papato, no? Di Francesco. Il primo Francesco è stato quello che viveva il Vangelo, viveva alla lettera. Adesso ai giorni nostri è un po' difficile. Questo, però... scusi, fermo un attimo, no? Rientra nel riposizionamento del brand, questa cosa qua. Grazie, ha trovato un nome, come vede, ha colpito subito il nostro ascoltatore. Ma il riposizionamento del brand non può che passare attraverso i valori condivisi. Il problema vero è quali sono questi valori condivisi, perché non sono più chiari nemmeno ai clienti. Quindi comincia a ridefinire i valori, quindi ridà la mission all'azienda. Che si dice, esatto, la mission è back to basics, e questo significa azzerare tutto quanto. Poi bisognerà vedere quanto la parte conservatrice della Chiesa sarà in grado di accettare questo, perché il vero problema anche è che c'è una parte che non vuole le riforme, sì, ma poi non vuole cambiare. Questo colpisce soprattutto gli osservatori, non tanto poi alla fine. Io ho sentito fior di puttanieri, non sto a fare nomi, sono miei colleghi stimatissimi, che se la prendono per la caduta del senso sacrale della Chiesa. Per carità, il senso sacrale è una cosa semplicissima, sono cose concrete, sono cose semplici che si condividono, non è una sacralità artefatta e manieristica come quella a cui ci avevamo abituato papi precedenti. Anche la spettacolarizzazione non c'entra niente col sacro. Cioè, una delle cose più orribili che si possano vedere sono i Papa Boys. Orrendi, sì, è vero. È una cosa orribile, gli applausi in piazza. Ma che cos'è? Questo non è misticismo. Sì, questa è una forma di applicazione di un principio che nasce con le chitarrate in chiesa degli anni 60. Purtroppo, sì. E va avanti con i grandi movimenti di massa, con i grandi movimenti che poi si sa bene che... Era il tentativo di fare una religione di massa. Giovani, la cosa giovane. Cioè, le orrende chiese anni 70, i preti in jeans, queste cose qua che sembravano avvicinare la chiesa, questo invece l'hanno distrutta. È il passaggio dal marketing di massa... che poi c'è stato un marketing più settorializzato con la frammentazione della Chiesa in tante chiamiamole sette. Attenzione, il nostro Presidente del Consiglio dice che è stato un Papa Boy, si è vantato. Purtroppo, si vede. Allora, infine, adesso siamo arrivati alla dissoluzione del marketing, cioè il marketing individuale è stato prefigurato da Kotler, il grande santone del marketing, e c'è arrivato da solo Francesco, cioè la Chiesa adatta non a tutti ma a ciascuno, che è una cosa lievemente diversa. Sentiamo Marco, buongiorno. 800 24 0024, visto questa è una radio con vocazione economico-finanziaria, date la vostra lettura, voi che intendete di aziende, vi intendete di gestione aziendale, della lettura di Ballardini che fa del Papa, che secondo me non fa una piega. Marco. Io invece mi pare che siamo lontani anni luce da quello, non tanto da quello che fa la Chiesa, ma da quello che c'è nelle Sacre Scritture, e non mi riferisco certo al connotato assolutamente positivo che sta dando Papa Francesco al suo papà. Dov'è il punto? Dov'è il punto di caduta? Di guardare in modo un po' dispregiativo, un po' con sufficienza, quello che è stato l'operato dei papi precedenti. Ma ne ha fatti santi già due, ne sta facendo santo un terzo, scusate. Ma facendo santi tutti quelli che l'hanno preceduto. Io non voglio fare santo nessuno. Non è che li disprezzi, però. Io sto dicendo che non mi piace il carattere dispregiativo o comunque di... così, Ma chi ce l'ha di marginalizzazione? Beh, voi avete detto che i precedenti si sono posti sostanzialmente al di fuori del messaggio. Ma noi siamo degli osservatori laici, scusi, io non sono tenuto di quello che penso. Ma proprio per questo non vorrei che il troppo laicismo, il troppo ateismo fosse una non via comoda ateo. Per cercare una fede che fa comodo a voi. Scusi, a me non fa comodo nessuna fede. No, signor, guardi, lei sta predicando e i miei predicatori veramente mi danno un certo senso di fastidio. Io non sono laico, non sono ateo, non ho detto essere ateo, non sto disprezzando nessuno, facciamo un'analisi fredda, cruda, semplicemente legata alla tecnica di gestione comunque della fede. Poi la fede, chi ce l'ha è fortunato, chi non ce l'ha vive lo stesso, vivrà peggio, sono fatti i suoi. Cerchi di avere anche un punto di vista non così fortemente condizionato da quello che è il suo punto di vista, sia leggero se possibile. Se la fede uccide la leggerezza, la fede non è una cosa che in realtà fa bene alla salute, secondo me. Bruno Ballardini. Io direi che questo è un atteggiamento atteggiamento molto diffuso della parte conservatrice che c'è nella Chiesa, cioè quella che si basa poi sull'interpretare le sacre scritture alla lettera. Il testo sacro è normativo, invece il testo sacro, come io mi sono permesso di sostenere, sono un umile bagnino nella pozzanghera del Signore, quindi mi limito a fare delle osservazioni, osservo. Il testo sacro e il magistero della Chiesa sono un immenso ipertesto e che conferisce questa caratteristica, una qualità dialogica quasi, è più dinamica. E a sua volta il dialogo chiesto da Francesco necessita della disponibilità a essere cambiati. Crede la definizione di Ballardini, il testo sacro è un ipertesto, è vero, si adatta, se no non esisterebbe esegesi, non esisterebbe interpretazione, se no saremmo fermi, immobilizzati e bloccati all'inizio. Grazie Ballardini, alla prossima. Grazie a voi.